Dentro il ricordo di un perché trovo immagini di me ed intorno ancora qualcosa che non c'è. Provo a seguire l'armonia dei miei passi sulla via per trovare tracce della vita mia. È un movimento ancora lento, ma adesso sento la forza crescere sempre più spesso. Ascolto il vento e adesso penso che è bello essere. È un movimento che sta salendo e adesso sento il sangue scorrere sempre più spesso. Mi guardo dentro ma adesso vedo il sole sorgere. Che è bello esistere.